Effetto Mondo. Fica hata anda ata ora bata rata ande eke eke manda rasata. For I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. Allora, io ho capito, sento il suono della vittoria, sì. Ma chi era questa qua? Guardate, cioè nel senso che io ho detto scherzando, sembra la H, quella danza, sì, dei giocatori di rugby neozelandesi. Questa signora che avete sentito è Paula White, è una donna di 54 anni, originaria del Mississippi, è la consigliera spirituale di Donald Trump. Non è assolutamente nuova alla opinione pubblica americana, perché nel gennaio 2017 partecipò all'insediamento ufficiale di Donald Trump, è appunto la sua consigliera spirituale. Questo che avete sentito era il rito propiziatorio che lei ha pronunciato. Lei ha un canale TV, perché è una telepredicatrice, per appunto propiziare la vittoria di Donald Trump. Non c'è assolutamente niente da scherzare, perché Donald Trump l'ha anche scelta come capo della Faith and Opportunity Initiative, che è un programma della Casa Bianca iniziato da George Bush nel 2001 per finanziare soprattutto queste chiese evangeliche. L'idea è quella di avere più diversità religiosa possibile. Il fatto è che poi non c'è trasparenza su come vengono distribuiti questi fondi. Lei è una teorica della teologia della prosperità, che è sostanzialmente l'idea sarebbe: se tu sei ricco vuol dire che Dio ti vuole bene, ha voluto che tu diventassi ricco. Non scherziamo su queste cose, non è folklore, come ho sentito dire ieri in una trasmissione televisiva sulla 7, non è affatto folklore. I cristiani evangelici sono l'80% dell'elettorato cattolico, dell'elettorato religioso di Trump, quindi è una fetta di elettorato molto importante per lui, e questi sono i loro modi anche di esprimersi e di divertirsi. No, io so, sdrammatizzo e torno invece su quello che tu dicevi, sì. Non bisogna prenderlo sotto gamba, non è folklore. Ogni paese si diverte con i politici in modo suo, noi ci divertiamo, chi si diverte con De Luca, che esatto, fa molto ridere, certo, ha creato un genere, sì, a me sembra ormai un mostro. Però, vivente, e loro si divertono con con questa signora qua che dice: sì, sento il profumo della vittoria. Sento il profumo della vittoria, poi. È anche miliardaria, perché questi telepredicatori negli Stati Uniti poi chiedono fondi per le loro chiese. Lei in particolare è pastora di questa New Destiny Christian Center in Florida. Si chiama calvinismo, scrivono alcuni ascoltatori. È calvinismo? C'entra col calvinismo? Non so, io direi proprio di no, insomma. No, io non sono c'è Calvino che si rivolta nella tomba. Ma naturalmente i titoli dei giornali americani sono, come sappiamo, ci sono ancora di fatto tre stati in bilico, quindi Fight to Finish USA Today. E molto interessante, perché ieri a Federico Rampini ho sentito dire, corrispondente della Repubblica dagli Stati Uniti, una cosa molto interessante. Ha detto che in questo momento è molto utile ascoltare Fox News e non la CNN, perché Fox News, che è molto pro Trump, ha alcuni giornalisti che in questo momento anche loro non riescono a seguire il presidente Trump su queste sparate, il conteggio non va bene dove mi sta sfavorendo e invece continuiamo per esempio in Arizona dove mi sta favorendo. Sentiamo quindi Rick Santorum, che è un ex senatore, sì, repubblicano della Pennsylvania, che ieri ha criticato duramente Donald Trump, non tanto per il fatto di dire cerchiamo di essere sicuri di come vengono fatti i conteggi, questo è sacrosanto in una situazione, sappiamo, dove il voto per posta ha raggiunto delle proporzioni che mai si erano viste causa Covid. Però ha detto non si possono lanciare accuse come ha fatto il presidente Trump senza avere le prove. Sentiamo le parole di Rick Santorum, che è un uomo vicinissimo a Donald Trump. Again, it's just it's very disappointing, I think, shocking, yeah, at times to hear the president say the things that he said, and I'm hopeful that that Republicans will stand up at this moment and say what needs to be said. Dice? È deludente, disappointing, anzi shocking, scioccante sentire il presidente dire le cose che ha detto, e spero che i repubblicani, oltre a me naturalmente, più vicini a lui, a questo punto si alzino in piedi e dicano come la pensano. Il New York Times parla appunto di questi tre stati in bilico, poi c'è anche un po' di cronaca sui disordini, ce ne sono stati molti anche a New York, ma per dirvi che se da una parte Joe Biden continua a dire siate pazienti, questo viene riportato portato in tutti i titoli, c'è chi dall'altra parte, Steve Bannon, che nel 2016 è considerato l'artefice della vittoria di Donald Trump. Adesso sapete che oltre alle vicende giudiziarie si è anche, non ha più alcun incarico ufficiale, però ha un podcast che si chiama War Room Pandemic. E ieri, tra l'altro, questo podcast è stato rimosso da Facebook e da Twitter perché è talmente, come sentirete, talmente violento che viola le regole di Facebook e di Twitter e di molti altri social media. Ma sentiamo le parole di Steve Bannon. I'd actually like to go back to the old times of Tudor England. I'd put the heads on pikes, right? I'd put them at the two corners of the White House as a warning to federal bureaucrats. Dice, la prima cosa che farà Trump, dando per certo che venga rieletto nel suo secondo mandato, è licenziare Anthony Fauci e licenziare il capo dell'FBI, colpevole di aver indagato su alcuni gruppi di suprematisti bianchi. E poi dice, ma in realtà farei di più. I'll go back to the old times of Tudor England, quindi tornerei ai tempi della cara vecchia Inghilterra dei Tudor. Decapiterei Fauci e il capo dell'FBI e attaccherei le loro teste sui pikes, sui pali, ai due angoli della Casa Bianca, come un warning, come un avvertimento a chiunque non segua i dettami che vengono dalla Casa Bianca. Cioè siamo alla follia, insomma. Capite? Cioè, per me è follia. Poi non so, fate voi. Continuo, per carità, ad avere il massimo rispetto per le persone che hanno votato Trump, sono la metà degli elettori americani. Ma non per questo tipo di cose. Perché in questo momento così delicato, ripeto, le persone più lucide del Partito Repubblicano, non del Partito Democratico, stanno dicendo attenzione. Rick Santorum in un altro passaggio diceva a soffiare sul fuoco in questo modo. Bisognerà vedere poi però questo Partito Repubblicano se come qualcuno dice, trumpizzerà ulteriormente anche nella sconfitta, perché comunque si aggrapperà a questa, diciamo, a questa linea, oppure se invece emergerà una leadership diversa. Giulia, vuoi, abbiamo ancora qualche secondo per allargare un po' il quadro. Sì, molto effetto anche i titoli del giornale del Michigan, perché il Michigan, sapete, è uno stato che è passato a Joe Biden, probabilmente, insomma, quasi certamente, è uno stato tradizionalmente operaio, dove i neri però, che sono numerosi, non votavano. E c'è questa polemica perché un reverendo bianco di Detroit ha detto: vi rendete conto che i neri sono passati da picking cotton a picking presidents, cioè dal raccogliere cotone a scegliere il presidente? Questo è per darvi un'idea di quanto importano questi voti per posta in alcuni stati che vengono dalle comunità afroamericane, e per farvi capire quanto ancora è derimente la questione della discriminazione verso gli afroamericani. Non la chiamerei mai razziale, ma proprio verso gli afroamericani. Allora, dobbiamo chiudere solo una parola, che naturalmente i giornali europei si stanno un po' stufando di essere appesi a queste elezioni, quindi in Francia si torna a occuparsi del fondamentalismo islamico, Macron chiede più controlli alle frontiere, e invece in Spagna si istituisce il Ministero della Veridad contro le fake news. Benissimo, ci torniamo domani anche sui giornali europei, meglio e più approfonditamente. È tutto per oggi, Jacopo De Franchi in redazione, Pietro La Corte in regia. Ciao, buona giornata.